allora, di nuovo buonasera a tutti e a tutte. E ci siamo per una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera riparliamo di acqua pubblica. Avremo due collegamenti, uno con Torino e uno con Pescara, ma lascio subito la parola a Paolo. Sì, ben ritrovate e ben ritrovati. E prima appunto di passare a questi due collegamenti per fare un po' un punto della situazione su alcune vertenze che stanno entrando nel vivo sia in Piemonte a Torino che in Abruzzo da Pescara, ma su una vicenda che sta interessando il Gran Sasso e il suo grande acquifero, volevamo fare invece un punto della situazione su quanto sta accadendo a Roma, perché le altre volte abbiamo fatto degli aggiornamenti, ma ce ne sono di nuovi e comunque è importante che appunto si possa costruire un po', ricostruire il quadro. A dicembre, per quanto riguarda a Roma e quanto sta avvenendo rispetto a tutta la vertenza, la campagna per ritornare ad una gestione pubblica dell'acqua, a inizio dicembre c'è stata una riunione, un'assemblea di tutti i sindaci della provincia, quello che poi è chiamato Ato 2, e dove si è deliberato l'istituzione di un tavolo per studiare la fattibilità della ripubblicizzazione di Acea Ato 2. Acea Ato 2 è l'azienda che gestisce appunto l'acqua a Roma e provincia. E è un fatto decisamente importante che ovviamente come CRAP, come Coordinamento Romano Acqua Pubblica, chiediamo e pretendiamo dal 2011, cioè dall'anno dei referendum, però sostanzialmente inascoltati. L'istituzione del tavolo è stata voluta, va detto, dall'amministrazione Raggi, se non erro era primavera scorsa o inizio estate che fu approvata una mozione in Assemblea Capitolina proprio che chiedeva e dava l'impegno, fissava l'impegno per la Raggi di promuovere in seno all'Assemblea dei Sindaci l'istituzione di questo tavolo. E finalmente in realtà a fine novembre, il 27 novembre, si sono riuniti i sindaci e sono riusciti a votare questa istituzione. Quindi fatto importante, positivo, un avanzamento, però c'è un però, perché ovviamente non è tutto oro quel che luccica, ed è la posizione con cui si è presentata in quell'assemblea il Comune di Roma attraverso il suo delegato, che forte appunto di essere il promotore di questa proposta, di questo tavolo, però è stato, per come si suol dire, scavalcato a sinistra dagli altri sindaci nel momento in cui si sono dovuti definire i componenti del tavolo, che fino a quel momento, secondo il documento presentato appunto dal Comune di Roma, dovevano essere solo i sindaci. Ovviamente qualcuno dei presenti ha detto, sempre sindaco o loro delegati, hanno detto perché non far intervenire e far partecipare anche i comitati per l'acqua, che in questi anni hanno dimostrato, diciamo, competenza e costanza nella mobilitazione, nell'attenzione, nel costruire appunto una battaglia su questo tema. E la cosa paradossale è che appunto il delegato del Comune di Roma per tre volte è intervenuto dichiarando che secondo il Comune di Roma era inopportuna la presenza dei comitati, che sarebbero stati semmai auditi, avrebbero partecipato come uditori, però noi diciamo senza pari dignità rispetto agli altri componenti, che invece erano componenti a tutti gli effetti. Solo quando è stata messa a votazione la proposta appunto di allargare il tavolo anche ai comitati per l'acqua, il Comune di Roma ha percepito che sarebbe stato l'unico a votare no, e quindi per le regole interne, per il conteggio dei voti, a porre un veto alla presenza dei comitati, quindi ha votato a favore. E questo ovviamente per noi è un segnale non da poco. Chi, diciamo, si è riempito la bocca sia in campagna elettorale ma continua anche a farlo di voler promuovere la partecipazione, la democrazia partecipativa e diretta, diciamo, si oppone a che comitati costituiti da cittadini che da anni lavorano sul tema possano dire la loro su, appunto, un progetto di ripubblicizzazione, quindi di trasformazione dell'attuale assetto societario misto pubblico-privato di Acerato 2 in un'azienda speciale. Va ricordato a sostegno, diciamo, della nostra posizione che già nel 2012 ci attivammo anche spendendo un po' di soldini per chiedere a una società di consulenza di fare proprio uno studio sui bilanci di Acerato 2 per verificare la possibilità di realizzare la trasformazione in un gestore pubblico, e appunto arrivammo a dimostrare che era fattibile secondo la normativa e anche sulla base delle scarse risorse finanziarie, nel senso ci sono risorse interne all'azienda che potrebbero permettere la ripubblicizzazione sostanzialmente a costo zero senza neanche aumentare le tariffe. Quindi avremmo di che da dire in seno al tavolo per la ripubblicizzazione, e per noi ovviamente è un fatto importante poter partecipare e dire la nostra, come anche speriamo che ci venga consentito anche indicare un esperto, un tecnico che siede accanto a noi a quel tavolo, cosa che è permessa e prevista per i sindaci, ma al momento non ci è dato sapere se anche noi siamo, diciamo così, titolati. Senti, ma ti posso fare una domanda? Qual è l'adesione dei sindaci? Qual è stata la risposta dei sindaci interpellati? Quanti sono, e se, diciamo, tutti quelli interpellati hanno risposto positivamente, sono venuti un po', quali sono le posizioni? Allora, le posizioni sono, diciamo, l'affluenza alle urne rispecchia il dato nazionale, quindi con una battuta per dire che i comuni che rientrano nel lato 2 sono circa, se non erro, 112 o giù di lì. La partecipazione all'assemblea dei sindaci è ridotta al lumicino e si sta a cavallo del numero regale, e quindi, diciamo, siamo intorno alla quarantina. Poi alcune volte si sfiorano i 50, altre volte non si raggiunge neanche il numero legale, che se non erro intorno ai 37, e in questo caso sì, si era poco al di sopra del numero legale e sostanzialmente all'unanimità, almeno degli intervenuti, ma con nessun voto contrario, mi sembra 4-5 astenuti, è stata approvata, diciamo, l'istituzione del tavolo per la ripubblicizzazione. E quindi, voglio dire, se questo si può proiettare sul resto dei sindaci, diciamo, quantomeno immagino che non ci sarebbe stata comunque l'unanimità, però vuol dire che c'è almeno una posizione abbastanza favorevole. Quanto sia strumentale o meno, visto che gran parte dei sindaci sono centrosinistra o centrodestra, soprattutto centrosinistra, pochi sono del Movimento 5 Stelle, quindi quanto sia strumentale questa posizione non ci è dato modo di sapere. Hanno votato a favore di una proposta di 5 Stelle facendo interventi anche condivisibili, e quindi non so quanto possa essere una foglia di figo e un contentino che danno, perché, come si suol dire, un tavolo non si nega a nessuno e poi tanto si rimane impantanati sul tavolo. Esatto, perché quella è la cosa, perché poi dovrà arrivare comunque un momento in cui ci sarà un, cioè, ci si augura che ci sarà una votazione. Il tavolo, diciamo, deve fare una proposta entro 6 mesi, quindi sostanzialmente redigere una relazione della discussione, di sintesi di quello che è emerso, e quindi che porteranno anche i tecnici, i sindaci e anche noi, e proporre quindi, diciamo, un documento sulla fattibilità o meno della ripubblicizzazione alla conferenza, che quindi poi dovrà arrivare effettivamente poi sì a una votazione, a una decisione su questo, perché è comunque la conferenza dei sindaci che è sovrana è questo. Poi lì bisognerà capire rispetto alla scadenza della concessione, che se non era nel 2032 ad Acea, se può essere fatta prima come noi sosteniamo, insomma ci sono un po' di questioni da approfondire, però sicuramente diciamo poi spetterà la conferenza dei sindaci, e lì è evidente che la posizione del Comune di Roma pesa come un macigno, nel senso appunto c'ha diritto di veto o invece al contrario c'ha la possibilità di far passare diciamo alcune proposte. Anche, cioè c'è un peso sul rispetto al numero degli abitanti, sì, cioè pesato, ponderato rispetto al numero degli abitanti, quindi sostanzialmente Roma rispetto agli altri, anche se diciamo appunto c'è un diritto sostanziale di veto in conferenza dei sindaci. Ci sono dei segnali che ci fanno ben sperare. Altro punto appunto che volevo raccontare oggi è il fatto che martedì scorso in Consiglio Comunale, Assemblea Capitolina, è stata votata la modifica dello statuto. C'è stata anche un po' di polemica sui quotidiani perché si è modificato diciamo la parte relativa al referendum consultivo, e questo alcuni, soprattutto i radicali, lo hanno visto come diciamo un tentativo di annullare il referendum sull'ATAC, no? Sulla privatizzazione di ATAC, e perché appunto si cambiano diciamo le regole del gioco in corsa, si istituisce addirittura la possibilità per l'Assemblea Capitolina di proporre un controreferendum, e quindi uno potrebbe essere portato a votare su due quesiti anche antitetici, quindi magari sì, creando un po' di confusione. E però fatto, per rimanere al tema dell'acqua, è che è stata proposta la modifica dello statuto con l'inserimento del principio dell'acqua bene comune, diritto umano universale, inviolabile, eccetera eccetera, che in sé per sé è un fatto positivo, però a essere maliziosi, o meglio a essere un po' pignoli, ancora non abbiamo avuto modo di vedere la delibera, anche perché da alcuni articoli letti sembra che, non essendo arrivati ai 2/3 dell'Assemblea Capitolina come voti favorevoli, si debba passare per altre sedute, per altre votazioni, e quindi ancora non abbiamo visto il testo. Abbiamo letto diciamo alcuni virgolettati, ma ci sembra diciamo un testo che appunto è di principio, poteva essere ben più cogente rispetto poi alla gestione, nel senso che io ho gioco facile a dire che l'acqua è un diritto, per dire una battuta l'acqua è bagnata, ma se poi non arrivo a poter garantire attraverso un sistema di gestione pubblica quel diritto, ma lo lascio in mano ai privati, diciamo ho fatto una bella operazione di facciata. E come noi proponiamo da anni, e tanti comuni in Italia l'hanno fatto, si poteva modificare lo statuto anche inserendo diciamo la prospettiva di una gestione pubblica, cioè qual è la volontà del comune rispetto alla gestire il servizio idrico, e si poteva dire che poteva essere fatto tramite enti di diritto pubblico e non lasciare diciamo il tutto nel vago. Quindi da una parte è vero, è un segnale positivo, dall'altra diciamo ci lascia un po' perplessi perché non si è andati fino in fondo. Dall'altra, anche incontri, interlocuzioni che abbiamo avuto con alcuni rappresentanti delle amministrazioni ci fanno capire che insomma diciamo non sono così convinti sulla possibilità di arrivare a dire che si può fare. Parlano di un'utopia, e bisogna capire quanto questa utopia è fattibile. Per noi non è un'utopia, certo sappiamo che non è diciamo così un percorso in discesa, però sappiamo che è fattibile, e quindi diciamo il quadro è ancora movimentato. Certo è che rispetto a anni precedenti qualcosa si sta muovendo nella direzione giusta, starà anche a noi far sì che si arrivi fino in fondo. Sì, io devo dire che l'ho sentita come piccola notizia al telegiornale regionale, insomma mi è sembrato un piccolissimo segnale, cioè quantomeno comunque se ne continua a parlare. Ecco, secondo me questo veramente è grazie a un lavoro incredibile che state facendo dal comitato, che ancora comunque con tutte le difficoltà delle sede, sgomberi eccetera eccetera, insomma, cioè comunque sempre lì, insomma, è una cosa che secondo me va sempre sottolineata, perché se ne continua a parlare e se ne continua a parlare dicendo che non è un'utopia e che si deve fare, questo insomma da sottolineare. Sì, no, questo sicuramente. Dall'altra, sempre a voler essere maliziosi, siamo in campagna elettorale, certo, e quindi il tema dell'acqua è un tema che diciamo tocca la sensibilità dell'opinione pubblica, e poter spendere in campagna elettorale che Roma modifica lo statuto inserendo il principio del diritto umano all'acqua, istituisce un tavolo sulla ripubblicizzazione, per tanti vuol dire che si sta facendo realmente qualcosa di concreto. In realtà ancora no. Se poi ci aggiungiamo, come vedremo dopo anche al collegamento di Torino, che l'altra amministrazione grande dei 5 Stelle ha approvato una delibera che parla lo stesso di ripubblicizzazione dell'azienda locale, la SMAT, in azienda speciale, quindi in una gestione pubblica, mettere insieme queste cose comunicativamente è forte. E quindi aspettiamo al varco sostanzialmente l'amministrazione. Altri segnali che ci arrivano, che invece sono contraddittori, è per esempio il comportamento che ha avuto l'amministrazione rispetto a tutta la crisi idrica, l'emergenza idrica di quest'estate. Un segnale che è appunto in contraddizione per esempio con inserire il principio del diritto umano all'acqua è il fatto che in una delle estati più siccitose negli ultimi 150 anni hai chiuso i nasoni e non hai garantito il diritto all'acqua per tante persone, soprattutto per esempio su le migliaia di persone disagiate e senza fissa dimora. Allora poco importa se lo metto nero su bianco, ma se poi fattivamente faccio qualcosa che invece va in direzione ostinata e contraria. E come il nuovo piano industriale di Acea, che è stato presentato a fine di novembre, che è un piano costruito dall'attuale management che ha sostituito quello precedente, che era di fatto di nomina renziana, con altre persone anche titolate, ma è un piano industriale che guarda all'aumento dei dividendi agli azionisti, e quindi è un piano industriale che sostanzialmente, almeno da quel punto di vista, rimane nella logica privatistica, cioè quella che l'azienda ha come obiettivo prioritario quello di massimizzare il profitto per far rendere la partecipazione azionaria a soggetti grandi come Caltagirone piuttosto che Suez, o anche allo stesso comune di Roma, che c'ha il 51%. Cioè, se dico e comunico che aumenterò i dividendi, vuol dire che anche nelle casse del comune di Roma entreranno molti più soldi, e visto lo stato del debito del comune e tutti i vincoli di spesa che ci sono per il patto di stabilità, fiscal compact eccetera, è evidente che è un qualcosa che dà molto respiro all'amministrazione. Però rimaniamo in quella logica. Allora la logica non ci sembra cambiata rispetto al passato. L'intervista che ha rilasciato l'amministratore delegato durante la presentazione, insomma nei giorni successivi alla presentazione del piano industriale, aveva un incipit che sembrava di essere tornato indietro di 20 anni. Parlava appunto della la conquista delle nuove frontiere di Acea nel sud del mondo, in Costa Rica piuttosto che in altri paesi dell'America centrale, cioè come se ancora fossimo in quella tendenza per cui il nord del mondo va a fare shopping in giro per il sud del mondo portando il famoso know-how, quando invece le grandi multinazionali sono state cacciate da un sacco di paesi, sia africani che del Sud America, a pedate, perché hanno fatto solo disastri. Quindi diciamo che siamo ancora in una fase in cui, diciamo, noi prendiamo, diciamo, quegli spunti positivi che ci sono e fino in fondo, diciamo, lavoreremo con il coltello tra i denti per raggiungere l'obiettivo. Però è evidente che ci sono segnali invece che vanno da un'altra parte. Con le antenne, comunque, con la dovuta attenzione. Con l'antenne. E ultima cosa. Sì. Ci abbiamo proprio pochi secondi, però va detto, perché l'altro tema invece importante per Roma, ma per tutta la regione Lazio, è il fatto che poco prima di Natale la giunta Zingaretti ha approvato la cosiddetta attuazione della legge per l'acqua pubblica a livello regionale, e quindi andando a definire i nuovi ATO, i nuovi ambiti territoriali, che nella legge in realtà si chiamavano ambiti di bacino, perché noi avevamo previsto, visto che era una legge di iniziativa popolare, che i nuovi ambiti rispecchiassero, diciamo, la distribuzione dell'acqua sul territorio, quindi la distribuzione idrografica, idrogeologica. E purtroppo è vero che si va all'attuazione di quella legge, ma, diciamo, scordandosi di questi principi che erano scritti nella legge stessa, andando a individuare 6 ambiti invece che 5 attuali su tutta la regione. E con questo, diciamo, possiamo prendere atto che almeno abbiamo sventato l'ato unico, che avrebbe significato gestore unico regionale, quindi grande potere ad ACEA su tutta la regione, molto probabilmente, però siamo lungi dall'aver attuato, diciamo, la legge per come era stata impostata. Addirittura si arriva a dividere il bacino dell'Aniene e quello del Sacco, nonostante ci sia una tra le più forti mobilitazioni in quei due territori, senza tener conto lo stato del fiume Aniene, del Sacco, non ne parliamo neanche, perché è un fiume che non può essere chiamato neanche più tale, perché è praticamente una fogna a cielo aperto. L'Aniene lo è, soprattutto il Basso Aniene, e l'Alto Aniene invece è ancora in uno stato buono a livello qualitativo, ma quantitativo invece c'è un prelievo enorme da parte di ACEA, che quindi limita il corso del fiume con tutti i problemi che ne conseguono. Mettiamoci anche i cambiamenti climatici, quindi la diminuzione delle piogge e quindi anche della portata delle sorgenti, e quindi il fatto di aver suddiviso, diciamo, questi due fiumi in diversi ambiti ci fa capire, diciamo, che il ragionamento che c'è dietro non è quello, appunto, di tutelare l'acqua in quanto tale, ma ci sono probabilmente altri equilibri da tenere presenti. E comunque anche questa delibera dovrà passare, nel poco tempo che rimane fino alle elezioni, attraverso un parere di una commissione che non si capisce se si riuscirà a riunire prima dello scioglimento sostanzialmente del Consiglio regionale, e quindi siamo proprio col fiato corto, addirittura d'arrivo. E ovviamente sarà gravissimo se l'amministrazione Zingaretti non arrivi a ad attuare la legge sull'acqua pubblica, e comunque se lo farà in un modo, diciamo, che è deprecabile e criticabilissimo, e quindi comunque anche questo è un pezzo su cui stiamo continuando a tenere l'attenzione, perché ovviamente c'è tutta anche la possibilità di intervenire e far pressione sui sindaci affinché, diciamo, magari si possa far cambiare qualcosa in questa definizione, istituzione dei nuovi ATO. Mi fermerei qui per la prima parte. Sì, allora facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Stop. Allora, torniamo in diretta e siamo in collegamento con Mariangela del Comitato Torinese per l'Acqua Pubblica e l'abbiamo accennato prima facendo appunto un po' il quadro della situazione a Roma, come anche cioè, soprattutto a Torino si sia fatto un importante passo in avanti verso la gestione pubblica. Il 9 ottobre è stata approvata una delibera, finalmente direi, però appunto chiederei a Mariangela di spiegare un po', illustrare come si è arrivati a questa delibera, perché appunto non è diciamo così un qualcosa piovuto dal cielo, ma insomma il comitato ha fatto un lavoro lungo anni per raggiungere questo obiettivo. Un lavoro lungo e difficile, lunghissimo direi, perché con la passata maggioranza di centrosinistra al Comune di Torino non c'è stato verso di convincere il Partito Democratico a trasformare l'azienda idrica in azienda di diritto pubblico. Ci hanno dato dei contentini, ma la sostanza deve rimanere di diritto privato, perché il privato è bello. E non siamo riusciti a sondare, ci eravamo illusi che con la nuova amministrazione a maggioranza assoluta 5 Stelle le cose sarebbero state più semplici e più veloci, anche perché in precedenza con i 5 Stelle avevamo lavorato molto bene, sia per il referendum sia per la campagna elettorale, con un programma sull'acqua pubblica che la sindaca Appendino ha citato nelle sue linee programmatiche, e quindi sembrava che finalmente si andasse un po' in discesa, e invece tutto si è fermato. Non abbiamo mai capito che cosa è successo. In ogni caso, la verità, cosa è successo dietro le quinte, intendo, perché pubblicamente rinvii, ritardi, equivoci, aspettiamo, vediamo, ma sì, insomma, ci abbiamo messo un anno e mezzo. Finalmente l'iniziativa l'hanno presa un gruppo di consiglieri comunali e hanno preparato loro, non una delibera di giunta della sindaca, no, una delibera di iniziativa dei consiglieri comunali, se la son fatta, se la son discussa, se la son portata avanti un'eternità anche per questo. Finalmente il 9 di ottobre passa in consiglio comunale, ma che cosa passa? L'impegno a costituire un gruppo di lavoro che prepari la trasformazione di SMA. E adesso, di nuovo, faticosamente, stiamo chiedendo che questo gruppo di lavoro si formi. Ci hanno detto che verso metà gennaio si sarebbero trovati, la maggioranza si sarebbe trovata per concordare il tipo di gruppo di lavoro che avrebbero costituito, ma che non c'è ancora, per cui noi siamo sempre ad incalzare, a premere, a dire sbrigatevi, anche perché nella delibera che hanno approvato il 9 ottobre c'è scritto che immediatamente dopo l'approvazione della delibera si doveva costituire il gruppo di lavoro, e l'immediatamente vuol dire che siamo al 15 gennaio dal 9 ottobre, per dire insomma le difficoltà che abbiamo. La strada sembra tracciata e giovedì della prossima mercoledì 24 ci sarà un convegno organizzato dai 5 Stelle della città metropolitana rivolto a tutti i comuni, sono 300 comuni della città metropolitana, per dire andiamo verso la ripubblicizzazione di SMAT. Vediamo, ecco, cosa perché succede. Infatti è importante ricordarlo, nel senso che SMAT è una società per azioni però a totale capitale pubblico, ovvero il cui capitale è detenuto interamente dai comuni che fanno parte del lato 3 del Piemonte, quindi non c'è la necessità la provincia di Torino, quindi non c'è la necessità di ripagare quote private e quindi sostanzialmente è, per esempio, rispetto, perché prima abbiamo parlato appunto della situazione di Aceato 2, che è differente, molto diversa, sì. È una questione di volontà politica esclusiva, non ci sono impedimenti, diciamo, economici o finanziari, no. Ecco. Sì, c'è un piccolo particolare, ci sono delle partecipazioni piccole di alcune finanziarie dei comuni che non sono quindi soggetti gestori di acquedotti pubblici, ma sono le casseforti dei comuni, casseforti vuote, così tutte, ma insomma, ecco, queste piccole finanziarie c'è già l'impegno che almeno SMAP, che ha soldi attivi, si ricompri le proprie azioni in modo che vengano estromesse e rimangano solo i comuni e nessun altro, ma direi che i comuni sono ormai più del 90% del capitale, quindi siamo dentro ampiamente a tutte le regole dell'in-house, no? Dell'affidamento diretto, non c'è problema di riscatto se non di una minima parte, ma ogni anno SMAP ne ricompra una piccola parte e sta diminuendo questa, che non ostacola comunque la decisione finale. No, questa è un'azienda che non deve spendere soldi per comprarsi azioni in mano ai privati, sono tutte pubbliche, o dei comuni o delle finanziarie dei comuni, tanto per dire. E quindi poi laddove appunto si istituisca questo tavolo, questo gruppo di lavoro, che anche è una qualcosa di paragonabile a quanto sta avvenendo qua a Roma, perché si è votato per l'istituzione di un tavolo sulla pubblicizzazione, poi e quindi che questo gruppo arrivi a una sintesi, a una conclusione che si può fare e dà le indicazioni sulla direzione da intraprendere, poi bisognerà passare attraverso il voto di tutti i comuni soci. È per questo che direi che è abbastanza importante, per esempio, il convegno della prossima settimana, del 24, in cui la città metropolitana mette insieme tutti i comuni per spiegare la posizione di Torino, che non è solo, perché altri 40 comuni hanno già deliberato di trasformare il loro consenso alla trasformazione di SMAT in azienda di diritto pubblico. Ci rimangono però 200 ancora da convincere, e sono molti di questi sono in mano ancora a maggioranze del Partito Democratico, che sta facendo un ostruzionismo, un'opposizione veramente incredibile. E però noi andiamo avanti, insistiamo perché in quella direzione si vada, insomma. E tra l'altro un segnale mi sembra abbastanza positivo è che a questo convegno della prossima settimana l'introduzione ufficiale pesante, quella che conta, è stata la farà il professor Lucarelli, che verrà apposta da Napoli per questo convegno come dire, a diffondere la buona novella della pubblicizzazione, sperando di convincere qualche renitente a seguire questa strada, insomma. Certo. E appunto, sempre per tornare, diciamo, al paragone su Roma, perché prima noi dicevamo che ci sono alcuni segnali positivi, per esempio qui a Roma si istituisce il tavolo, è notizia della scorsa settimana che si è modificato lo statuto inserendo il principio, o si sta per modificare, nel senso che deve passare a quanto abbiamo capito ancora un'altra volta, due volte dal Consiglio Comunale, perché non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi. Comunque il principio dell'acqua bene comune, in una formula abbastanza così edulcorata, un po' annacquata, però comunque un segnale. E però ci sono segnali contraddittori: la gestione dell'emergenza idrica, il piano industriale dell'Acea, che continua a essere, diciamo, molto simile a quello del management passato, e lo stesso a Torino ci sono dei segnali appunto contraddittori, perché per esempio, per passare all'altro punto che mi interessava approfondire, era la questione del c'è stata una sentenza a cui si è arrivati anche sempre grazie alla vostra azione, per cui un giudice pace ha deciso che era illegittimo un conguaglio chiesto ai cittadini da parte di SMAT, quindi dall'azienda dell'acqua, che avevano sostanzialmente sottratto ai portafogli delle persone non poco, circa 46 milioni di euro. E su questo appunto chi vota in Consiglio Comunale la ripubblicizzazione, ovvero la maggioranza dei 5 Stelle, l'amministrazione torinese, che cosa dice? Uno si dovrebbe aspettare, no? Siamo dalla parte dei cittadini, siamo i rappresentanti dei cittadini, portavoce dei cittadini, stiamo con i cittadini, e invece stanno zitti. È una vicenda che si trascina ormai da 3 anni, dal 2014, quando abbiamo saputo che appunto SMAT è la nostra azienda dell'acqua, si era accorta che negli anni a cavallo del 2008, 2010, 2011 aveva venduto molta meno acqua, aveva guadagnato di meno e si è messa in mente di recuperare degli utili che non aveva fatto perché aveva venduto meno acqua. E che cosa ha pensato bene di fare? Di farcela pagare di più, di farcela pagare un'altra volta con un conguaglio. È una cosa che non abbiamo accettato, abbiamo cercato in tutti i modi di farla tornare indietro, di non applicare questo conguaglio. Non c'è stato niente da fare. In 3 rate, in 3 anni, ci hanno spillato 46 milioni e 600 mila euro dalle nostre tasche. E quando abbiamo interpellato il difensore civico, l'ATO, perfino l'autorità nazionale dell'energia elettrica, il gas, il servizio idrico, che ci ha risposto, pensa, ha risposto dicendo che vabbè, quello che è fatto e se non siete contenti rivolgetevi alla magistratura. Ma che pare? L'agenzia nazionale, quella che dovrebbe difendere, no? Gli utenti, i cittadini, che è pagata da noi con le nostre tariffe, quei signori lì che si prendono centinaia di migliaia di euro l'anno di stipendio, ci hanno risposto in questa maniera. E a quel punto abbiamo detto va bene, facciamo una causa pilota, andiamo davanti al giudice di pace. E cosa succede? Che per la prima volta, dopo tante sconfitte che abbiamo avuto, vero Paolo, sull'obbedienza civile eccetera, per la prima volta un giudice ci dà ragione e dice che SMAT, se non ha previsto l'andamento del mercato dell'acqua, è colpa sua e non deve rivalersi sugli utenti, certo. E che quindi restituisca i soldi che ha prelevato. Purtroppo, diciamo, la buona notizia è però compensata dal fatto che la sentenza vale per chi ha fatto quella causa e che quindi non si estende erga omnes, come era buona pratica una volta con i contratti di lavoro, no? Bisogna che ciascuno chieda a sua volta la restituzione di quei soldi, per cui in questi mesi, dopo la sentenza del 30 ottobre scorso, abbiamo dovuto riorganizzarci, l'associazione dei consumatori che ci aveva aiutato a fare questa avvertenza non ha più voluto proseguire, non vuole farne altre, e per cui abbiamo dovuto rimettere in moto tutta l'organizzazione e proprio oggi abbiamo cominciato proprio la campagna vera e propria per la restituzione del conguaglio, organizzando gli utenti, trovando l'avvocato che li metta assieme, perché sai, un conto è un grande condominio che ha grosso interesse a farsi restituire migliaia di euro, un conto è il singolo utente con la sua fatturina di qualche centinaio di euro che magari dice ma io non ci metto i soldi per recuperare qualche decina di euro. Insomma, dobbiamo fare tutte queste valutazioni. L'avvocato probabilmente accorperà in una specie di class action che non sarà quella, perché sai che in Italia la class action non si fa, accorperà i piccoli utenti in modo da dividere le spese fra 10-15 persone e fare una causa unica. E insomma ci stiamo organizzando per avere indietro i soldi che ci spettano, ma quello che, come anche tu hai sottolineato prima, è che di fronte a questi fatti noi abbiamo un consiglio comunale muto. Non hanno detto una parola. Abbiamo chiesto un piccolo gruppo di minoranza, in questo caso, ma molto vicino a noi, diciamo che è dell'area di sinistra. Insomma, una consigliera ha fatto un'interrogazione chiedendo che il consiglio si schieri a favore dei cittadini, eccetera. Silenzio. Ma SMAT, l'azienda dell'acqua, farà ricorso contro la sentenza del giudice di pace. Anche lì abbiamo protestato, ma come? Con i nostri soldi, perché SMAT userà i soldi della nostra tariffa per pagare un avvocato contro di noi. Ma siamo proprio, ecco cosa vuol dire avere un'azienda finalizzata al lucro e non al servizio dei cittadini. Ecco perché insistiamo che bisogna trasformarla in azienda di diritto pubblico, insomma, che non abbia più queste finalità perverse, certo, di mercato. Certo. E siamo nel pieno del lancio di questa campagna in questo momento. Purtroppo il Consiglio Comunale non ci aiuta in questo, sta zitto. Informalmente ci dicono ma non possiamo intervenire in un'azienda che ha il suo consiglio d'amministrazione. Ma come? Se c'è una legge italiana nazionale, il testo unico degli enti locali, che dice che i consigli comunali hanno il potere, oltre che il dovere, di indirizzo e controllo sulle aziende partecipate. E quindi dicano che non devono danneggiare i cittadini e che devono restituire il maltolto. Secondo me, non facciamo troppi apprezzamenti personali, ma credo che una parte di questa inerzia sia anche dovuta alla non conoscenza della normativa. Questione. Certo, un po' ignoranti, diciamo. Senti Mariangela, no, scusami, ecco solo qua. Ma perché abbiamo un altro collegamento, abbiamo pochissimi minuti, c'è Renato dall'Abruzzo che sta aspettando di poter Renato. Intervenire. Sì. E allora no, è chiarissimo, insomma, diciamo la contraddizione in campo anche a Torino, soprattutto su questa questione. Intanto ti ringrazio appunto per l'approfondimento, per questo prezioso racconto, e ci aggiorniamo poi a presto per seguirne l'evoluzione. Volentieri, buon lavoro Paolo. Grazie e anche a te. Ciao. Grazie, ciao. E allora di nuovo una brevissima pausa musicale, giusto per fare il cambio di telefonata, e mentre prima ci siamo ascoltati i Pixies con Where Is My Mind, e adesso ci ascoltiamo un Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. E allora la pausa è stata brevissima, ripassiamo subito la parola a Paolo e parliamo di nuovo di acqua. Sì, e passiamo appunto dal Piemonte, da Torino, dal Regno Sabaudo all'Abruzzo, a parlare del Gran Sasso, e perché oggi ci doveva essere una manifestazione a difesa dell'acqua, una manifestazione vietata dalla questura, perché oggi il presidente Mattarella era in visita all'Istituto di Fisica Nucleare, che sta proprio dentro al Gran Sasso. E però lasciamo la parola a Renato, che ci spiega il perché, le ragioni della manifestazione, quali sono le ragioni addotte dalla questura per vietarla, anche se le possiamo immaginare, e però ci fa un po' il quadro, diciamo, del perché si è ritornati, direi, dopo tanti anni a manifestare a difesa del Gran Sasso e anche della sua acqua. Beh, ciao a tutti innanzitutto. Noi col Gran Sasso abbiamo avuto purtroppo sempre dei grandi problemi creati da chi vede la natura come una fonte di potere personale o economico, e il Gran Sasso non è soltanto appunto una montagna, ma un sistema diciamo geologico, idrogeologico molto importante, che dà disseta 700.000 cittadini di diverse province degli abruzzesi, soprattutto Teramo e L'Aquila, che quando è stato fatto l'Istituto di Fisica Nucleare e i tunnel autostradali già negli anni 80 ci sono stati dei grossi problemi, che nel 2002 c'è stato uno sversamento di filtri di benzene che ha comportato la chiusura dei laboratori di fisica nucleare per un anno, che dopo questa cosa è stato nominato un commissario per il Gran Sasso, che ha speso ben 84 milioni di euro per sistemare i problemi relativi alla gestione dell'acqua e della sicurezza degli acquedotti, e che però, come abbiamo visto, purtroppo non ha prodotto assolutamente niente. E ci troviamo con un laboratorio nel quale ci sono sostanze chimiche pericolose per vari tipi di esperimenti, che non potrebbero proprio stare lì in base all'articolo 94 del decreto del 2052 sull'ambiente, e che impone la distanza, cioè minima di 200 metri da fonti pericolose, e invece questa cosa non è stata assolutamente tenuta in conto. Cioè ci sono quindi tonnellate e tonnellate e tonnellate di materiale pericoloso, e tra l'altro, per venire anche più vicino a noi, nel 2016 durante un'attività di manutenzione si è perso del diclorometano e ci sono stati dei grossi problemi. Quindi noi abbiamo a che fare sempre con con qualcuno che vuole utilizzare questo sistema, diciamo così, Gran Sasso, per fare delle cose magari anche positive, perché non diciamo che non si possano fare esperimenti o che non sia interessante verificare delle cose o meno, ma che non tengono mai conto di quella che è l'importanza che ha l'acqua, che ha tutto il sistema. Cioè, noi stiamo parlando di un laboratorio che è dentro una montagna che è piena d'acqua, no? Da tutte le sue parti, in tutte le sue parti, non è soltanto un problema esclusivamente dell'acqua che viene captata e portata fuori dalla montagna, e anche che proprio tutta la montagna trasuda l'acqua, e quindi c'è un pericolo costante. Un altro guaio che abbiamo avuto è proprio che abbiamo, diciamo così, scoperto che nonostante tutto questo volevano fare attuare un progetto che si chiama l'esperimento SOX, che prevede l'utilizzo di materiale radioattivo portato dalla Russia via Pietroburgo con la nave Le Havre, e poi direttamente qui nel Gran Sasso, per fare un esperimento di scienza diciamo non la pripura, con una grave pericolosità data non solo e non tanto da quel materiale diciamo nucleare in sé per sé, che non è enorme, ma che ha una potenza enorme, soprattutto se messo in un sistema cioè, diciamo delicatissimo come quello del Gran Sasso, una realtà che vede anche la presenza proprio lì di una faglia con relativo rischio sismico, e quindi chiaramente c'è un problema di possibile inquinamento, di possibili terremoti, perché siamo in mezzo diciamo a una zona sismica elevatissima. E quindi ripeto, noi non volevamo far presente tutte queste cose al Presidente della Repubblica, che veniva a festeggiare insieme a vari nuclearisti il trentennale degli studi di fisica nucleare, e quindi manifestare non facendo una marcia, ma semplicemente stando lì consegnandogli una lettera con cui spiegavamo tutte quante queste cose. E quindi avevamo anche detto che saremmo stati pochi, era un momento soltanto di approccio, insomma, e c'è stata vietata la manifestazione. Pronto? Sì, non all'Unione. È stata vietata la manifestazione perché per la sicurezza dei laboratori, la sicurezza del presidente, cioè la cosa veramente risibile. Certo. Ci hanno detto che, visto che noi ci interessiamo del problema idrico del Gran Sasso, avremmo potuto fare la manifestazione anche all'Aquila. Cioè, una cosa veramente come devo dire, da ridere, qualificabile da tutti quanti i punti di vista. No? E sì. Quindi oggi noi abbiamo sentito delle parole di approvazione, di entusiastica promozione di questo istituto di fisica nucleare da parte del Presidente. Non abbiamo sentito nessuna parola, nessun accenno alla necessità, cioè, che la ricerca si coniughi con la salvaguardia dell'ambiente e del bene prezioso e del bene comune acqua. Abbiamo sentito soltanto delle lodi a un sistema di produzione scientifico che è lì dentro, che non tiene conto assolutamente di quello che da anni stiamo dicendo. Ok, Renato, scusa, sono un po' tranchante perché purtroppo siamo andati lunghi ovviamente siamo già 4 minuti oltre le 9, dovevamo chiudere alle 9, però no, adesso ragionavamo anche così con Chiara, che ci interessa ritornarci, perché questa trasmissione è fatta anche da Geologia Senza Frontiere, e quindi tutta la questione del Gran Sasso magari ci faremo, non, se non una trasmissione totalmente ad hoc, ma già la prossima volta, quindi fra un mesetto ci ritorniamo sopra, e quindi magari ci ritorniamo, perché adesso insomma purtroppo abbiamo avuto un po' troppo poco tempo solo per dare appunto alcuni spunti, e però appunto la situazione insomma lo dimostra anche il passato, è una situazione altamente critica e che quindi ci interessa seguire. Per il momento insomma ti ringraziamo. Voi pensate che addirittura non è stato diciamo così nemmeno aggiornato il piano di emergenza esterno, cioè qui siamo di fronte veramente a cose incredibili, quindi mi sembra giusto poterci ritornare con più diciamo così con più tempo, con più possibilità di approfondimento, anche perché chi vuole questi esperimenti a tutti i costi sembra quasi aver elevato la scienza non a una scienza ma a una quasi cosa fideistica religiosa, insomma, perché si dà per scontato che delle cose si debbano fare punto e basta, e non è ammessa la critica, non è ammessa la discussione, è veramente poco scientifico tutto ciò. Grazie ancora Renato, e ringraziamo anche tutte e tutti per l'ascolto, e noi torneremo circa tra un mesetto a riparlare di acqua e rischio idrogeologico. E un saluto a tutti e tutte, e soprattutto a chi è privato e chi è privata della propria libertà personale.